Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di contenuti, quelli che non ci sono nella campagna elettorale. Sentiamo parlare tanto di candidati, sentiamo scambiare tante invettive, fino adesso abbiamo sentito poche ricette. E allora vi presento un libro che ne presenta una di ricetta, che viene da lontano, sia nel tempo che nella geografia, e però che non ha perso attualità, secondo l'autore che molti di voi ricorderanno come corrispondente dei telegiornali della RAI, cioè Antonio Caprarica, che ha appena pubblicato il libro Ci vorrebbe una Thatcher, dalla Lady di Ferro al governo dei tecnici, le ricette anticorruzione crisi che potrebbero salvare l'Italia, pubblicato da Spelling e Kupfer, 182 pagine, 17 euro. Il libro ripercorre la storia della Gran Bretagna negli anni recenti, segnata ovviamente dal ciclone rappresentato da Margaret Thatcher, che inflisse al suo paese una lunga cura che, secondo Caprarica, però ha permesso alla Gran Bretagna di sopravvivere e anzi di rilanciarsi, e non a caso ricorda il premier laburista Tony Blair, che seguì il lungo governo conservatore della signora Thatcher, si guardò bene dal cambiare e dal rinnovare le grandi riforme che aveva fatto appena prima di lui la Lady di Ferro. Nel libro troviamo le origini della signora Thatcher, le spiegazioni di come arrivò al potere, quale sia stato l'ambiente nel quale sia cresciuto, l'ambiente anche politico, e qualche parallelo con l'Italia, e l'esame dei tanti settori, dall'industria alla finanza, che furono radicalmente trasformati grazie alla determinazione del primo ministro britannico, che mostrò assoluta irremovibilità sulle proprie convinzioni liberiste. E su questo sentiamo adesso l'autore. Buongiorno ad Antonio Caprarica. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Antonio Caprarica, lei comincia il suo libro con una confessione. Dice: a noi ex sessantottini ancora non sazi di utopia socialista, Margaret Thatcher gettava in faccia come un guanto di sfida il suo proclama: non esiste una cosa come la società. E adesso invece scrive un libro in onore e in lode della signora Thatcher. Che cosa le ha fatto cambiare idea? Quello che gli inglesi chiamano fact-checking, il controllo dei fatti, la verifica dei fatti. Naturalmente sono passati parecchi decenni da quando ero un giovane sessantottino non sazio di utopia, insomma l'esperienza del mondo è aumentata, e soprattutto 20 anni in Inghilterra mi hanno fatto scoprire un paese che poi cerco di raccontare quasi ogni giorno, un paese che proprio grazie alla amarissima medicina somministrata 40 anni fa dalla signora Thatcher ha recuperato vitalità, capacità di produrre ricchezza, idee, insomma è diventato quel vibrante paese che la Gran Bretagna di oggi, con una capitale che rappresenta una metropoli mondiale, la Ville Monde, come la chiamano perfino i francesi, la città Monde. Ecco, a proposito di verifica dei fatti, lei è abbastanza critico e documenta questa sua critica, per esempio con un'esperienza che non fu proprio della Thatcher, quella della privatizzazione delle linee ferroviarie. Che cosa non funzionò in quell'esperienza? Sì, grazie di aver citato anche appunto questi aspetti che non condivido, perché della linea thatcheriana non è che si debba prendere ovviamente tutto quanto in blocco. È vero che la privatizzazione delle ferrovie in effetti fu opera del successore Major e fu davvero una vicenda e un affare molto ideologico, perché in realtà le ferrovie britanniche funzionavano benissimo, avevano un peso molto ridotto e limitato sul bilancio pubblico, quindi la privatizzazione fu più che altro un omaggio allo spirito del tempo più che una reale necessità economica, sociale e politica. Non ha funzionato il fatto che il monopolio pubblico è stato spezzettato in 19 piccoli monopoli privati, non si è introdotta una reale concorrenza sul binario, ma si è deciso invece di affidare a 19 signori del binario una rendita di posizione che continuano a sfruttare, con scarsissimi investimenti sulle ferrovie, sul materiale rotabile, sulle stazioni. Insomma, da questo punto di vista è meglio la privatizzazione, sia pure incompleta, appena avviata, che stiamo tentando noi italiani, nel senso che ci sono diverse compagnie e società, in questo caso, nel caso nostro solo due, che però possono confrontarsi e dare vita a una reale concorrenza che influisce positivamente sul prezzo del biglietto per i viaggiatori. Nel caso britannico questo non si verifica, ogni linea è un piccolo monopolio in cui lo zar locale decide quali sono i prezzi, quali sono i servizi, e in genere la qualità è piuttosto carente. E invece che cosa importerebbe subito in Italia della signora Thatcher? Importerei la privatizzazione delle utilities, dei servizi pubblici, perché significherebbe migliorarne l'efficienza e ridurne il prezzo. Ad esempio l'energia elettrica in Gran Bretagna costa meno che in qualsiasi altro angolo d'Europa. Non vale per l'acqua, ma anche qui per l'acqua gli investimenti sono ingentissimi, come peraltro sono in Italia, o dovrebbero essere in Italia, perché la nostra rete idrica, che al momento è governata da qualche migliaio di piccole società, quindi con un dispendio di energia e di costi straordinario, ha bisogno di investimenti per 60 miliardi di euro, che naturalmente non siamo in grado di permetterci, a meno che non venga privatizzata e quindi ci sia un ingresso dello spirito imprenditoriale privato. Importerei inoltre dalla Gran Bretagna e soprattutto prenderei dalla cura Thatcher l'idea di una riduzione della dimensione dello Stato e di un deciso, drastico taglio dei livelli di rappresentanza istituzionale. È incredibile che da noi, tra cittadino e Stato, ci siano non so quante decine di consigli, dai consigli di circoscrizione, comunale, provinciale, regionale, e tutte istanze che naturalmente provocano non solo una grande spesa per gli apparati, come dire, politici in senso stretto, ma sono un vero e proprio colabrodo dal punto di vista della spesa pubblica. E infatti lei ricorda alcuni referendum in cui molte importanti città inglesi hanno rifiutato di avere un sindaco eletto. Ma torniamo alla signora Thatcher. Che cosa rappresentò per la società inglese il primo grosso episodio della sua premiership, cioè lo scontro con i minatori nello Yorkshire? Quello è stato l'episodio che ha determinato una forte polarizzazione dell'opinione pubblica britannica attorno alla figura della Thatcher. È il momento in cui si decide che una metà del paese la adora e l'altra metà la odia, che è una situazione tutto sommato non cambiata rispetto a 30 anni fa, però è il momento in cui la Thatcher ha il coraggio di andare avanti, anche affrontando l'impopolarità che in qualche misura le viene da questa battaglia durissima nei confronti dei minatori, con le cariche della polizia. Perfino la regina, pur senza affidare le sue riflessioni a nessun organo ufficiale, insomma, lascia trapelare un certo malcontento per questa rottura violenta della pace sociale. Ma la Thatcher affronta di petto il tema delle industrie decotte. L'industria mineraria britannica era totalmente decotta, andava chiusa, costava di più tenerla in vita che chiuderla e cercare per i minatori un diverso avvenire, un diverso futuro. E credo che questo discorso faccia squillare anche parecchi campanelli nella testa di noi italiani, basta che diamo un'occhiata, diciamo, alla nostra situazione mineraria. Ecco, quell'episodio in qualche modo segnalò alla Gran Bretagna che il leader, ai britannici, che il leader che avevano eletto, come poi lei stessa in realtà aveva detto a un famoso congresso del Partito Conservatore, the lady is not for turning. La signora non torna indietro. Ecco, segnalò una determinazione che giustificò poi il nomignolo Lady di Ferro, anche se gliel'avevano dato quel nomignolo i sovietici e non i minatori. Ecco, a proposito della società inglese, lei mette in luce il fatto che la Thatcher non fosse un simbolo di quella società classista, lei che veniva sprezzantemente definita la figlia del droghiere. Riuscì a cambiare questo classismo della società inglese la signora Thatcher? Ma è stata in realtà la donna, il leader, che è riuscito a procurare all'Inghilterra l'unica rivoluzione del XX secolo, la rivoluzione della classe media. È stata la Thatcher, con il suo appello agli istinti fondamentali dell'individuo, cioè dell'affermazione nel lavoro e della creazione di ricchezza attraverso il lavoro, a provocare quel sommovimento nella società inglese che ha posto fine al lunghissimo dominio dell'establishment. L'establishment è, da noi li chiamiamo i poteri forti, ma insomma i nostri poteri forti fanno ridere rispetto all'establishment britannico, che è un conglomerato che per decine e decine di anni ha riunito la grande aristocrazia fondiaria, i titolati, i lords, i direttori dei grandi giornali, della BBC, i vescovi, la Chiesa d'Inghilterra, come sapete, è guidata dalla regina. Ecco, questo establishment ha vissuto, che poi si esprime politicamente nel Partito Conservatore, ha vissuto la leadership Thatcher come l'occupazione di un'usurpatrice e quindi tendeva a espellerla, ma lei in realtà è stata proprio la donna o il leader che è riuscita a cambiare i connotati di classe di una società come quella inglese, che ancora oggi è la più classista in Occidente, ma dove ormai al dominio dell'establishment si è sostituita la prevalenza della middle class, della classe media, che è quella ormai decisiva nella società britannica. E questo è un risultato che si deve in larghissima parte alla Thatcher, alla sua ideologia, se vuole, molto ghisottiana del arricchitevi. Era questo il messaggio che lanciava a un paese che si era troppo abituato allo Stato nanni. Tornate ad arricchirvi, tornate a produrre ricchezza, questa sarà la benedizione delle vostre famiglie. E oggi è amata la signora Thatcher dai suoi concittadini? È amata da molti, venerata da quasi tutti, se perfino nel partito laburista qualcuno dice, beh, speriamo che Ed Miliband sia la Thatcher del New Labour, sia in sostanza un leader capace di operare un cambiamento radicale di prospettiva, che è quello che fece la Thatcher alla fine degli anni 70 e quello di cui la società britannica oggi avverte il bisogno, perché anche qui la crisi naturalmente ha prodotto confusione, incertezza e un futuro dai contorni assai poco definiti. Ecco, nel suo libro le fa anche un cenno al fatto che la signora fosse abbastanza abile anche nell'esercitare il suo potere femminile, un fascino femminile. Sì, questo certamente, lei sapeva di essere affascinante, di essere bella, era una, forse a qualche italiano questa bellezza tipicamente inglese garba di meno, ma per i maschi britannici la Thatcher era certamente un sex symbol. Lei lo sapeva, curava moltissimo il suo aspetto, la sua famosa chioma ondulata e i suoi riccioli biondi, curava molto la sua pelle e era ricorsa agli aiuti di un specialista della parola per cambiare il suo accento che era, e la sua voce stridula. Ecco, il suo ingresso in politica, questi erano dei fattori che pesavano grandemente sulla sua capacità di influire sul pubblico, voce stridula e pessimo accento. Lì ha lavorato molto e alla fine, dopo questa opera, se vuole, di, come dire, di raffinamento, abbiamo avuto questa bella signora affascinante che esercitava un certo dominio anche di carattere, diciamo, sessuale sui suoi ministri. Del resto perfino Mitterrand, è restata famosa, diciamo, la definizione di Mitterrand che parla della Thatcher come di una donna che ha gli occhi di Caligola ma la bocca di Marilyn Monroe, quindi una donna dal grande volere, dal grande potere di volontà, ma anche capace di esercitarlo con lo charme tipicamente femminile. Grazie ad Antonio Caprarica, autore di Ci vorrebbe una Thatcher. Buona domenica. Anche a voi, grazie. Un grande liberista, il decano anzi dei liberisti italiani, è Sergio Ricossa, illustre economista e polemista, che pubblica una scelta dei suoi diari tenuti nell'arco dei 50 anni 1944-1994. Il titolo del libro è Come si manda in rovina un paese. È pubblicato da Rubbettino, 294 pagine, 16 euro. Importante la notazione che fa Lorenzo Infantino nella sua prefazione. Infantino scrive infatti che nulla viene dal nulla, il declino economico-sociale che caratterizza la vita del nostro paese ha radici ben profonde e questo libro ci permette appunto di capire dove arrivino queste radici, sono radici molto lunghe. L'arco di tempo preso in esame è quello appunto nel quale si consolida nel nostro paese una visione fortemente statalista e interventista che, secondo Ricossa, avrebbe portato poi all'esplosione del debito pubblico con cui dobbiamo fare i conti ancora oggi. Ricossa, di formazione, è un liberale einaudiano che vede sempre più messo nell'ombra il proprio maestro, che così viene ricordato nella sua esperienza ministeriale del 1947, quando Luigi Einaudi fu ministro del bilancio e contribuì a salvare l'economia italiana e anzi a gettare le basi per il suo successivo rilancio. Arrivano i nostri e Einaudi blocca il progetto Scoccimarro e spegne l'inflazione. Bel colpo, tenendo conto che Einaudi è un vecchietto ultra settuagenario e ha quasi tutti contro. I banchieri lo accusano di aver messo le mani sulle loro riserve, gli industriali di aver ristretto il credito, i sindacalisti di provocare disoccupazione, gli agenti di borsa di deprimere il listino, gli economisti keynesiani di non essere keynesiano. I provvedimenti di Einaudi sono giudicati eccessivi da alcuni, inutili da altri. L'inflazione si sostiene, si stava curando da sé. Milano è in sciopero contro Einaudi, i partigiani occupano la prefettura. È una loro mania, non sanno che le prefetture sono enti ormai inutili e da sopprimere. Quindi il libro di Ricosta rappresenta una testimonianza davvero appassionata che ci fa leggere sotto nuove lenti molte vicende, molti personaggi del primo cinquantennio della Repubblica, anche con particolari ironici o perfidi a seconda dei punti di vista. Un libro tira l'altro. Abbiamo parlato dei primi anni della Repubblica, allora vi propongo una ricostruzione romanzata di quegli anni nel libro di Valerio Varesi, che è un giornalista, scrittore e giallista che ha appena pubblicato Il Rivoluzionario, pubblicato a Frassinelli, 468 pagine, 18,50 euro. Si parla qui della parabola di un ex partigiano, Oscar, che si scontra con la difficoltà di realizzare i propri ideali di comunista convinto. E Oscar deve fare presto i conti con la burocratizzazione del Partito Comunista, che viene rapidamente ma efficacemente descritta in queste righe, nelle quali si rievoca la convocazione di Oscar nella Federazione del Partito Comunista di Bologna, convocazione per dargli un incarico importante, cioè quello di membro della segreteria dell'allora mitico sindaco Dozza. In tutto simile a una chiesa, il partito aveva i suoi oscuri rituali. Le decisioni bollivano a fuoco lento in segreteria per molto tempo, poi venivano a galla improvvisamente e nessuno ne sembrava responsabile. Tutto questo ammantava gli avvenimenti di un velo sacrale, come la discesa dello Spirito Santo nei conclavi cardinalizi. Oscar salì lo scalone di via Barberia con un po' di agitazione ed entrò nell'anticamera di Camillo Rangoni, il segretario della federazione. Due compagni lo accolsero con un sussiego che lo infastidì e che già prefigurava qualcosa di prefettizio. «Ci stiamo rapidamente imbolsendo?» si domandò davanti a quei modi ministeriali. Oscar vuole realizzare un mondo di uguali, fatto di cooperative, senza contrapposizione tra lavoratori e padroni, e cercherà di realizzare questo ideale andando in Africa. Le delusioni però aumenteranno, soprattutto quando il Partito Comunista deciderà di andare al governo con la Democrazia Cristiana. Oscar è rientrato in Italia, siamo alla metà degli anni 70, e questa strategia, quella del compromesso storico, convince poco lui e tanti altri comunisti. Che schifo, coi preti, a un certo punto dirà Oscar, e il compagno fedele alla linea gli risponde: l'unico modo per andare al potere, o almeno è questo che il partito sostiene. E Oscar anticipa: e tu pensi che glielo lasceranno gestire? Moro è furbo, li sbriciolerà lentamente a forza di mediazione, oppure gli sbarreranno il passo con la violenza. Questo è il risultato del realismo politico dei compagni. Come vedete, una grande delusione nei confronti del Partito Comunista. A Bologna Oscar fonderà un'altra cooperativa sociale, diventerà felicemente eccentrico, come si definisce lui stesso, non perderà la fiducia negli ideali di gioventù, diffidente di quella cultura di mercato e dei manager che vede irrompere nel partito di gioventù. Un'altra interpretazione di Bologna negli anni 50 troviamo nell'ultimo libro di Enrico Brizzi, che ha dato vita, come ricorderanno i suoi lettori, a due filoni: quello dei libri su epiche imprese di trekking e quello dedicato invece all'epopea fantastorica, cioè un ciclo ambientato in un'Italia del dopoguerra che ha però vinto la guerra, nella quale Mussolini, ormai vecchissimo, è il presidente a vita acclamato da tutti. Mussolini insomma è al potere e nessuno si sogna di scalzarlo, anche se appunto le condizioni di salute ormai declinano. L'Italia è una specie di Spagna o di Portogallo autoritari, con la differenza che il nostro paese ha appoggiato l'asse degli alleati contro l'asse nazista, e quindi Stalin, Churchill e Truman sono molto grati all'Italia e fanno grande spazio al nostro paese. In questa Italia fantastica, in questa Bologna del 45, parte l'avventura dell'amore tra Lorenzo e Irene, che darà vita a una serie di vicende che si intrecciano tra appunto quelle del protagonista e quelle della nazionale di calcio, che è attesa a un trionfo nei campionati mondiali che si svolgono in Brasile. Il regime naturalmente annette grandissima importanza a questo appuntamento e soprattutto all'esito, che deve essere trionfale per la nostra nazionale, ma questa incorrerà in un'avventura di cui è artefice una scheggia impazzita del regime, quel principe borghese di cui abbiamo anche sentito parlare particolare nella storia recente della Repubblica. Un altro romanzo italiano, questo ambientato nell'Italia d'oggi, è quello di Antonella Boralevi, Baci di una notte, pubblicato da Rizzoli, 240 pagine, 16 euro. Questa è una storia drammatica ambientata nella Cortina del dicembre del 2012, quindi una storia che si conclude pochi giorni fa. In quella cortina ricca e mondana, in occasione del Capodanno, si consuma l'incontro tra un ragazzo altolocato e cinico e una povera ragazza milanese di origini modeste, capitata quasi per caso con un'amica nella località sciistica per Capodanno. La tragedia si consumerà appunto in poche ore e metterà a confronto due mondi completamente diversi, in certi casi contrapposti e ostili. E qui sta forse la parte più interessante del libro, che ci scorre quasi come una telecronaca di un incontro impossibile. Curiose le ultime pagine del libro, dove con i ringraziamenti troviamo da parte dell'autrice Antonella Boralevi il diario di scrittura e quindi come si è supportata in queste settimane di scrittura. Troviamo il supporto logistico con cioccolate e biscotti integrali, la colonna musicale e anche gli esercizi fisici ai quali è ricorsa per tenersi in forma. Ultimi arrivi. Vi segnalo alcuni titoli recentissimi. Il primo di un'autrice famosa, Susanna Tamaro, Ogni angelo è tremendo, è pubblicato da Bompiani, 268 pagine, 16,50 euro. È la storia della scoperta di una bambina del proprio essere donna, che racconta la storia autentica dell'autrice e del suo rapporto con l'arte e con la letteratura. Poi un altro nome noto, Domenico Capopardo, che torna col suo personaggio. Il libro si intitola Agro e il maresciallo La Ronda, è pubblicato da Marsilio, 222 pagine, 17,50 euro. Qui troviamo un agro ancora giovane, nel 1975, che collabora con un maresciallo alla soluzione di un delitto avvenuto in un centro balneare siciliano. I primi passi di agro, insomma. Poi vi segnalo uno scrittore nomade, Nicola Lecca, così si definisce lui stesso, e ha pubblicato La piramide del caffè, pubblicato da Mondadori, 236 pagine, 17 euro. Il titolo si riferisce al sistema sociale instaurato in una caffetteria londinese che fa parte di una catena, nella quale il protagonista, reduce da un orfanotrofio ungherese, scoprirà, oltre che il lavoro, la vita. E infine vi segnalo un libro su un personaggio di cui si è parlato recentemente, perché abbiamo ricordato il decennale della sua scomparsa, cioè Giovanni Agnelli. Il libro si intitola Mi piace il vento perché non si può comprare ed è curato da Stefania Tamburello, è pubblicato da Rizzoli Etas, 264 pagine, 16,50 euro. Troviamo nel libro l'Agnelli pensiero, una serie cioè di citazioni su vari argomenti, per esempio la fortuna. Nel 2007 l'avvocato Agnelli così disse della fortuna: per quanto riguarda la fortuna, si può essere certi di essere stati fortunati solo quando la partita è finita, io invece sono ancora al tavolo da gioco. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato in questa puntata di fantastorie, di autentici personaggi, allora vi segnalo il libro di Stefano Varanelli, 100 grandi personaggi d'Italia, è pubblicato da Giunti, 144 pagine, 14,90 euro, ed è illustrato da Riccardo Guasco. Da Ozzi, l'uomo del Similaum, fino a Falcone Borsellino, troviamo qua artisti, politici, santi, scienziati, esploratori, poeti e anche avventurieri che hanno contribuito a fare con genialità, coraggio e forza, come dice l'autore, la storia d'Italia. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.